GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Pioggia dalla Carnia al Carso Triestino, previsioni rispettate, le maggiori precipitazioni in regione sono state registrate a Pulfero a fronte degli 85 mm di pioggia caduti nel giro di 3 ore, previsti temporali fino al primo pomeriggio. Cercando di sfuggire alla cattura della polizia, esce dalla finestra su un cornicione dell'albergo dove era alloggiato, ma cade rimanendo gravemente ferito. È accaduto la scorsa notte a Trieste, nei pressi della stazione ferroviaria. Un cittadino di nazionalità tunisina è stato espulso dal territorio nazionale e trasferito al centro per il rimpatrio di Gradisca, a suo carico una condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale e sequestro di persona a danno di minorenne. La Società Filologica Friulana celebra il 100° congresso sociale a Malnisio nell'auditorium della ex centrale idroelettrica, con l'intervento di Carlo Ginzburg sul tema scoprire Monte Reale attraverso le vicende di un mugnaio del Cinquecento. In occasione della 16ª edizione dell'iniziativa Ville Aperte in Friuli Venezia Giulia, sono 9 le dimore storiche aperte oggi al pubblico. Sport atletica, come da previsioni è stata vinta dall'etiope Mukhtar Edris la 7ª edizione della Corsa dei Castelli di Trieste, manifestazione podistica di 10 km su strada con partenza dal Castello di Miramare e arrivo al Castello di San Giusto. Le 12:17 minuti e 30 secondi in questo istante, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Maria Spezia che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di domenica 15 ottobre, che apriamo con uno sguardo alle condizioni del meteo. Previsioni avverate in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la pioggia che, come predetto nei giorni scorsi dall'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, è stata registrata in più parti in regione, sebbene a macchia di leopardo e a fronte sia di rovesci sia di temporali. Nel corso della scorsa notte si è passati infatti dalla totale assenza di precipitazioni registrata a Pordenone agli 85 mm d'acqua caduti a Pulfero nel giro di 3 ore, che hanno segnato il massimo della pioggia caduta sul territorio prima dell'alba. La parte occidentale del Friuli Venezia Giulia infatti non è stata coinvolta dalla perturbazione in corso, mentre l'Isontino, la zona del Carso al confine con la Slovenia e le valli del Natisone sono state abbondantemente irrigate dalle precipitazioni. A Sgonico sono infatti 56 mm di pioggia registrati, mentre nelle zone limitrofe i dati attestano circa 30 mm di precipitazioni, cioè il triplo di quanto avvenuto a Trieste e Muggia. Copiosa anche la pioggia che si è riversata sulle valli del Natisone e del Torre, con almeno 20 mm d'acqua discesi nell'area. Molto scarsa invece la quantità di pioggia che ha irrigato le zone montane. La situazione è però in aggiornamento, in quanto sono previsti ancora temporali fino al primo pomeriggio di oggi. Ora i dati del meteo e le previsioni. Il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 18 gradi, il vento è da est-nord-est, dunque bora, a 42 km orari, con raffiche registrate a 57 km orari, il mare è mosso con temperatura di 23 gradi, a Pordenone 21, Udine e Gorizia 17 gradi e 5 decimi, in area montana Tolmezzo 14 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra e Piancavallo 11 gradi e mezzo, Tarvisio e Sappada 9, in quota sul Monte Zoncolan 5 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 2 gradi, sulla costa Lignano 20 gradi e mezzo e a Grado 19, la temperatura del mare in entrambe le località è di 22 gradi. Queste le previsioni dell'ARPA, nelle prossime ore cielo in prevalenza nuvoloso, si avranno piogge sparse con bora che in giornata si farà sostenuta specie sulla costa, miglioramento dal pomeriggio, in serata farà decisamente fresco e permarrà bora sostenuta sulla costa, previsione ancora incerta, domani cielo poco nuvoloso, temperature minime in deciso calo, soffierà bora moderata in pianura, più sostenuta sulla costa. Passiamo alla cronaca. Nel tentativo di sfuggire alla cattura della polizia, è uscito dalla finestra su un cornicione dell'albergo dove alloggiava, ma è caduto dal terzo piano rimanendo gravemente ferito. È accaduto la scorsa notte in via della Geppa, nei pressi della stazione ferroviaria di Trieste. Si tratta di un cittadino albanese di 30 anni, ora ricoverato all'ospedale di Cattinara in codice rosso. Aveva preso una stanza all'Hotel Italia in via della Geppa, non lontano dalla stazione ferroviaria di Trieste. Era arrivato a mezzanotte, si stava facendo una doccia quando verso l'una è arrivata la polizia. Lui, un trentenne di cittadinanza albanese, è entrato nel panico. Ha detto che si doveva vestire e ha tentato di fuggire fuori dalla finestra della stanza, al terzo piano dell'albergo, l'ultima in fondo al corridoio. Ha perso l'equilibrio ed è caduto dal cornicione. Un'automobile posteggiata in strada, ora con il vetro anteriore distrutto, ha attutito il colpo. Il giovane è ricoverato all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni, con fratture multiple ma non in pericolo di vita. A raccontare com'è andata è Guerrino Lanci, direttore dell'Hotel Italia. Parlava italiano con qualche imprecisione, riferisce Lanci. Era vestito normalmente con i jeans e una giacca. L'unica particolarità è che non aveva con sé un bagaglio. I suoi documenti sono stati registrati all'arrivo. A quel punto, come da prassi, sono stati trasmessi alla questura di Roma, che ha segnalato l'uomo ai colleghi di Trieste. Sul trentenne pendeva infatti un ordine di espulsione, in quanto era irregolare sul territorio italiano. Tutto è avvenuto in poco più di un'ora. Via della Geppa era immersa nel sonno e nessuno si è accorto di niente. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, un cittadino di nazionalità tunisina è stato espulso dal territorio nazionale, trasferito al centro per il rimpatrio di Gradisca. A suo carico è arrivata una condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti di una minorenne incontrata nel 2018 alla stazione ferroviaria di Codroipo e successivamente costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà. L'uomo è stato condannato per violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti della minorenne, nonché di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e uno dei carabinieri intervenuti sul posto. La Società Filologica Friulana celebra oggi il 100° congresso sociale a Malnisio, nell'auditorium dell'ex centrale idroelettrica. La Società Filologica Friulana ha celebrato il suo 100° congresso sociale nell'auditorium dell'ex centrale idroelettrica di Malnisio, in comune di Montereale Valcellina. Un segnale di continuità, una tradizione di congressi che prima di tutto vuol dire attenzione al nostro territorio, in questo caso al Friuli occidentale, ha detto il presidente della Filologica Federico Vicario. Ospite d'onore il professor Carlo Ginzburg, autore degli studi sul mugnaio eretico Menocchio. Ad aprire la giornata la scuola di musica Diesis, diretta dal maestro Gianni Fassetta. Oltre a Ginzburg, l'intervento di Francesco Chinellato dell'Università di Udine sulla centrale di Malnisio nell'ambito dell'infrastrutturazione elettrica del Cellina. È stato anche presentato il numero unico Montreal, una monografia di 800 pagine a cura di Aldo Colonnello, Alessandro Fadelli e Paolo Tomasella. Montreal e Valcellina, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. In occasione della 16ª edizione dell'iniziativa Ville Aperte in Friuli Venezia Giulia, sono 9 le dimore storiche aperte oggi al pubblico in regione. Un viaggio alla scoperta di un patrimonio comune poco conosciuto, dove i visitatori, accompagnati da guide esperte, in uno straordinario e inedito percorso storico-artistico. È la 16ª edizione di Ville Aperte in Friuli Venezia Giulia, la manifestazione organizzata da Noi Cultura e Turismo in collaborazione con l'associazione Itineraria. Dimore storiche, solitamente chiuse al pubblico, aprono le loro porte e i loro giardini, come Villa Giacomelli a Pradamano, costruita nel 1852 dall'architetto Andrea Scala, che realizzò uno degli ultimi esempi di villa veneta in Friuli per la famiglia che operava nella filatura e nel commercio. Alessandra Giacomelli. È l'occasione per tutti di visitare questa villa e conoscere un po' la storia. Una storia che è molto legata a Udine. Sì, perché la famiglia comunque viveva a Udine e questa villa era una villa di rappresentanza e veniva abitata solo in estate, 3 mesi all'anno, quindi cos'era, giugno, luglio e settembre, mentre agosto era il mese del teatro e quindi tornavano tutti a Udine. Tanti visitatori che hanno passato una domenica diversa all'insegna della riscoperta di antichi tesori. Fa parte della nostra cultura questo qua, della nostra storia, per cui vale la pena fare un giro a vedere gli ambienti vissuti. Pradamano, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli, una versione restaurata del Pellegrino del 1923 di Charlie Chaplin ha chiuso ieri sera la 42ª edizione del Festival Pordenonese delle Giornate del Cinema Muto, che quest'anno ha presentato 153 titoli fra corto e lungometraggi e registrato numeri in linea con le edizioni pre-pandemia, a fronte di 4.000 presenze e 450 abbonati per la programmazione online con provenienza da 35 nazioni. prossimo appuntamento a Pordenone dal 5 al 12 ottobre del prossimo anno, con una maggiore presenza di film italiani e un focus sul cinema sudamericano. Come da previsione, è stata vinta dall'etiope Mukhtar Edrisi in 29:32 la settima edizione della Corsa dei Castelli di Trieste, manifestazione podistica di 10 km su strada con partenza dal Castello di Miramare e arrivo al Castello di San Giusto. Tra gli italiani il risultato migliore è quello di Daniele Meucci, quarto con 30:10. L'iniziativa ha concluso la International Road Race Running Match Under 23, in cui il team azzurro si è posizionato al primo posto per gli uomini e al secondo per le donne. Vetture storiche e protagoniste alla Trieste Officine Historic, con 35 prove di abilità cronometrate lungo un percorso di 115 km che ripercorre anche la salita della Trieste Officina, con partenza da Piazza Ponte Rosso e arrivo in Porto Vecchio. Divieto di sosta e fermate di transito su Viale al Cacciatore nel tratto tra il secondo tornante e l'incrocio con Via dei Marchesetti fino alle 15. Lo scrittore toscano Fabio Genovesi, già vincitore del premio Strega Giovani nel 2015, presenterà il suo ultimo libro Oro Puro nella cornice della rassegna Pordenone Legge Fuori Città a Prata di Pordenone al Teatro Pileo alle 20:30. A Pordenone, in occasione della sfilata alpina organizzata dal gruppo Alpini Valle Noncello, è stata disposta la sospensione della circolazione stradale dalle 14:45 al piazzale della chiesa parrocchiale di Via Chiesa, a seguire per Via Valle Noncello. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 18:30. Ancora l'augurio a tutti voi di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.